Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. Siamo uno dei paesi al mondo con il sottosuolo più caldo, il paese in cui oltre 100 anni fa vide la luce la prima centrale geotermica del mondo. Fu il principe Ginori a realizzarla nel 1904. Pensate che all'epoca ci accendeva una lampadina. Ma ancora oggi l'Italia è uno dei paesi che presidia più fortemente questo settore dal punto di vista delle competenze. Eppure la geotermia, e in particolare la geotermia finalizzata alla produzione di energia elettrica, è sostanzialmente ferma da decenni, mentre paesi in condizioni assai meno favorevoli come la Svizzera stanno investendo in questo campo, spesso prendendo a prestito i nostri scienziati. Allora ne abbiamo invitato uno col quale stasera iniziamo a esplorare questo piccolo mistero all'italiana. Mi rendo conto che insomma è un'espressione un po' abusata, ma non so davvero come altro definirlo. Non ho invece dubbi su come introdurre l'ospite di stasera, che è Maria Luisa Carapezza, ricercatrice dell'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Buonasera Carapezza. Buonasera a voi, buonasera. Senta, una domanda lampo. Dove va lei lunedì? Vedo che siete informati. Lunedì io insieme al mio gruppo di ricerca siamo in partenza per il Costa Rica, proprio per uno studio di geotermia. Insomma, come volevasi dimostrare. Allora, senta, cominciamo a entrare nel merito. Ci sono vari tipi di geotermico, siccome da qualche parte dobbiamo cominciare, ne parleremo in altre puntate in futuro, iniziamo con il cosiddetto geotermico ad alta entalpia, che è esattamente quello di cui va a occuparsi in Costa Rica. Allora, di cosa stiamo parlando? La risorsa geotermica viene divisa appunto in tre settori, alta, media e bassa, in funzione appunto della produzione di calore che se ne ricava. Si usa questo concetto di entalpia, che in realtà è proprio proporzionale. Potremmo dire temperatura al posto di entalpia. La temperatura, quindi per una temperatura superiore ai 150 gradi si usa questo termine di alta entalpia. D'accordo. Come lei ha ricordato prima, l'Italia è stato il primo paese al mondo all'inizio del Novecento a inventare, a scoprire, a utilizzare l'energia geotermica, appunto. Sono famosissime le centrali di Lardarello, che vengono insegnate, almeno ai miei tempi venivano insegnate alle elementari addirittura, i soffioni boraciferi in Toscana. Infatti inizialmente lì c'era l'estrazione dell'acido borico, è stata fatta, quella è iniziata addirittura all'inizio dell'Ottocento, 1812, e da lì poi è nata l'idea, invece appunto il principe Ginori Conti fece questo esperimento di produzione geotermoelettrica estraendo vapore da un pozzo e riuscì ad accendere 5 lampadine. Ah, 5, va bene. 5 lampadine. Oggi, diciamo da allora si è fatto qualche passo avanti, perché cioè, l'Italia ha iniziato, ma è ancora il primo produttore di energia geotermoelettrica in Europa. Senta, di cosa si tratta? Si tratta di fare un buco sottoterra, andare alla ricerca di appunto una sorgente calda, per così dire. Molto semplificato è questo. Certo. Come è costituito, diciamo, il nostro pianeta, che c'è un nucleo caldo che è intorno a 5.000 gradi, questa temperatura si trasferisce al mantello, dal mantello alla crosta dove noi ci troviamo, e quindi si produce, diciamo, un flusso di calore verso la superficie. C'è quello che definiamo il gradiente geotermico, quindi un aumento della temperatura con la profondità, quindi se scaviamo troviamo una temperatura più elevata. Ma è chiaro che questo è di 33 gradi a chilometro, ma ci sono zone più calde e zone più fredde. L'Italia è un paese fortunato da questo punto di vista e le manifestazioni sono sotto gli occhi di tutti, e cioè l'enorme numero di vulcani e di sorgenti termali, certo, presenti. Il territorio è fortemente sismico. Anche, quindi è un, certo, territorio sismico, c'ha i lati negativi ma c'ha anche quelli, infatti, positivi. Ci sono tre condizioni che devono essere soddisfatte per poter avere un campo geotermico di alta entalpia, cioè che ci sia un serbatoio, quindi il fluido geotermico a una certa profondità che sia insomma conveniente, raggiungibile, sì, raggiungibile, che ci sia al di sopra però anche una copertura impermeabile che consenta a questo fluido quindi di mantenersi in pressione e di mantenere la temperatura. Quindi perforando ed estraendolo si potrà sfruttare. Si può produrre vapore, eccetera, eccetera. Si produce vapore, sì, generalmente vapore e acqua, un fluido, certo, binario, certo, in quei, certo, casi diciamo è meno, il rendimento è più basso. D'accordo, d'accordo. Ecco, senta, a proposito di rendimenti, qual è il potenziale di questa fonte nel nostro paese e quali sono i costi? Allora, attualmente la produzione annuale di energia geotermoelettrica rispetto alla produzione elettrica nazionale rappresenta l'1,9%, d'accordo, circa il 2%. E si potrebbe arrivare a quanto? Si potrebbe arrivare intorno, sicuramente raddoppiare, ma anche di più, io penso intorno a un 5% della produzione elettrica nazionale. I costi quali sono? È molto costosa questa forma di energia? Ha sicuramente un costo più elevato di impianto rispetto ad altre energie rinnovabili, tipo il fotovoltaico, insomma, o l'eolico. Però sicuramente il rendimento e il ritorno nella pianificazione economica si guarda a 15 anni, è sicuramente il più alto in assoluto tra tutte le energie rinnovabili. Anche perché questa va 24 ore su 24, non è sottoposta, come dire, alle variazioni climatiche, il vento, il sole, eccetera, eccetera. No, un altro aspetto importante che vorrei sottolineare è che, come lei diceva all'inizio, noi italiani abbiamo veramente il know-how, quindi anche l'Enel, che è attualmente il gestore principale dell'energia geotermica in Italia e che l'ha portato avanti in questi anni, sta dando consulenze importantissime ad altri paesi, al Cile, agli Stati Uniti, eccetera. E però in Italia non c'è un impulso in questo settore. Questo fa veramente rabbia. Grazie, cara Pezza. Grazie a lei. Questo è tutto. Mister Kilowatt torna domani. Parleremo dei pannelli solari termici, quelli, per intendersi, che servono a produrre l'acqua calda. Vedremo di dare qualche indicazione utile a chi eventualmente volesse acquistarli. Buona serata.